milioni della dichiarazione 2012 ai 4,5 dell'anno successivo. Governo dai quasi 300.000 euro di Lupi ai 76.000 della Boschi. L'idea di Padova, funzionari del consolato e poliziotti romeni per indagare sui furti e le rapine compiute dai loro connazionali. Ne parliamo tra poco con il sindaco della città. Ancora polemiche dopo gli scontri a Roma e timori anche per le prossime manifestazioni. Il caso di un agente fotografato con il piede su una ragazza. In Ucraina nuove occupazioni di edifici governativi da parte di filorussi. Il ministro Mogherini, non è ancora il momento della fase 3 delle sanzioni. Ferrari in crisi, si dimette Stefano Domenicali. Mi assumo la responsabilità della situazione che stiamo vivendo. Ci vuole una scossa. Al suo posto arriva Marco Mattiacci. In corso il CDA della Scala di Milano. Al centro il caso Pereira. Il sovrintendente designato avrebbe acquistato 7 allestimenti dal Festival di Salisburgo, solo che lo dirige lui. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Se volete, come sempre, le potete commentare al 349-238-6666 via SMS, scriverci effettogiorno@radio24.it, c'è la nostra pagina Facebook oppure mi trovate anche su Twitter. Apriamo con questa giornata che dovrebbe condurre alle nomine in alcune società di Stato e a quanto pare forse un ricambio totale. Vincenzo Miglietta, è questa la voce che circola? Sì, buongiorno, è questa la voce che circola e quindi occhi puntati, Simone, proprio su Palazzo Chigi. Le prime nomine dovrebbero arrivare nel pomeriggio a mercati chiusi, si partirebbe con Eni, Enel e Finmeccanica, per le altre partecipate si andrebbe ai prossimi giorni, anche se il Premier Renzi vorrebbe fare presto anche per le Poste, per dare un segnale di un governo che non perde tempo. Due i criteri indicati dal Presidente del Consiglio per le future scelte, niente conferme per chi ha superato 3 mandati e spazio alle quote rosa. Quanto al primo criterio, il tetto non è formalizzato in alcuna regola scritta, ma è assunto politicamente come il massimo di permanenza in carica, tanto in sede di commissione attività produttive del Senato quanto dallo stesso governo. Sulle quote rosa a parlare il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Delrio, che spiega: puntiamo a promuovere le donne fino ad arrivare ad una sostanziale parità di genere nelle nomine, per colmare un ritardo italiano che è di almeno 30 anni. Ma veniamo al toto nomine, sapendo che tutto può essere smentito poi dai fatti. A guidare l'ENI al posto di Scaroni andrebbe l'attuale direttore generale del cane a 6 zampe Descalzi, ma si è fatto anche il nome di Stefano Cao. L'amministratore delegato di Green Power Starace sostituirebbe Fulvio Conti all'Enel. Passaggio infine di Moretti, Ferrovie, Infinmeccanica. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta, passiamo a parlare di una società che di Stato non è più, ma della quale il governo si interessa molto, ossia Alitalia. Oggi dovrebbe essere un giorno importante anche per Alitalia. Valeria De Rosa, ciao, buongiorno. Buongiorno a te Simone, ai nostri ascoltatori, e sicuramente il governo, lo Stato dovrà continuare ad occuparsene anche parecchio. Attualmente sappiamo che l'incontro tra i sindacati e il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Maurizio Lupi per oggi non ci sarà, ci sarà solo nel momento in cui arriverà la lettera di intenti da parte di Etihad, e quindi nel momento in cui la compagnia araba formalizzerà la sua proposta e dopo la conseguente risposta di Alitalia. Questo è quanto si legge in una nota del Ministero. Sul tema è intervenuto anche il Ministro del Lavoro Poletti: dobbiamo esaminare il progetto su Alitalia così come abbiamo fatto in altri casi, se poi ci saranno problemi per l'occupazione prenderemo provvedimenti, se sarà necessario, ha detto ancora Poletti, useremo gli strumenti esistenti, altrimenti vedremo come agire come governo e seguendo le procedure parlamentari. Da quanto è trapelato fino a questo momento e quindi da quanto oggi scrivono anche i giornali, Etihad sarebbe disposta ad investire 500 milioni per il 40% di Alitalia, ma avrebbe chiesto la riduzione del personale, perché anche Etihad ha chiesto una riduzione dei costi. Si parla di 3.000 esuberi, che però nei fatti potrebbero anche essere meno, questo dipenderà anche dalle tratte che Etihad vorrà conservare. La compagnia di Abu Dhabi intende puntare su Fiumicino, il che ha aperto tutto un altro fronte interno che riguarda gli aeroporti lombardi. È in corso uno scontro che riguarda il governatore Maroni, il governatore della Lombardia, il quale ha detto che si esporrà solo su SEA, che è la società che gestisce Malpensa e Linate, solo nel momento in cui conoscerà dettagliatamente i piani di Etihad per quel che riguarda la ex compagnia di bandiera. Grazie a Valeria De Rosa per questi aggiornamenti. Anche qua una giornata di attesa per quanto riguarda l'Italia, mentre invece è durata poco l'attesa questa mattina per la pubblicazione dei redditi di parlamentari e ministri. Sentiamo cosa emerge. Poi povero Berlusconi. Nei giorni in cui si è deciso il suo destino ai servizi sociali, si è scoperto anche che il suo reddito è crollato dal 2011 al 2012 da 35 a 4 milioni e mezzo di euro. Questo secondo quanto si legge nell'anagrafe patrimoniale dei senatori della 17ª legislatura, che è stato ora reso consultabile. L'ex cavaliere e ex senatore ha pagato la crisi delle sue controllate, a cominciare da Mediaset, alle quali ha dovuto mettere mano di tasca sua, visto che il 2012, chiuso in rosso per 285 milioni, è stato un annus horribilis per la holding. Tra gli altri parlamentari spicca la differenza tra il presidente del Senato Pietro Grasso, che ha dichiarato 176 mila euro, e la collega di Montecitorio Laura Boldrini, che come funzionario ONU aveva percepito 100 mila euro. Fra quelli che oggi sono i ministri, il più ricco risultava essere il titolare dei trasporti, Maurizio Lupi, con un imponibile di 282 mila euro. La più povera fra i ministri era l'allora parlamentare Marianna Madia, del PD, 98 mila euro. Fra i capigruppo è Lorenzo Dell'Ai, dei Popolari per l'Italia, il più ricco della Camera, con un reddito imponibile di 193 mila euro. Il più povero, nullatenente, è Giuseppe Brescia, capogruppo grillino, che nel 2013 non aveva presentato la denuncia dei redditi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alle acque decisamente agitate del centrodestra. Iniziamo dalla parte più strettamente politica per fare un punto su Forza Italia dopo l'addio di Paolo Bonaiuti. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. In Forza Italia è sparita l'area riformista. Questa è la motivazione dell'abbandono di Paolo Bonaiuti al partito del Cavaliere. Sono stato ad Arcore, dice Bonaiuti, perché me lo ha chiesto Berlusconi, abbiamo pranzato insieme, poi ci siamo ritrovati a discutere faccia a faccia per 3 ore. In fondo sono stata la sua ombra per 18 anni e con lui la sintonia è normale. Poi il giorno dopo ho visto i giornali che dovrebbero essergli vicini e avevano fatto i titoli peggiori. C'è un problema di linea politica, ribadisce Bonaiuti. Dentro Forza Italia è sparita l'area riformista e moderata, resto nel centrodestra per costruire una linea moderata. Abbandonare il Cavaliere però pare ci sia anche un altro fedelissimo. Si tratta di Sandro Bondi, ex ministro dei beni culturali, penultima vittima del cerchio magico. Bondi ha già spedito una lettera di dimissione da amministratore nazionale di Forza Italia. Dopo queste faide sarà in possibile un riavvicinamento tra Forza Italia e il nuovo centrodestra. Invece c'è un altro caso ed è quello del leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, che, parafrasando l'incipit di Se questo un uomo di Primo Levi, attacca il premier Matteo Renzi e il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Una rivisitazione, quella di Grillo, che solleverà probabilmente molte polemiche. A te Simone. Grazie ad Elisabetta Fiorito. Oggi invece il leader di NCD e ministro dell'interno Angelino Alfano è intervenuto a Mix 24 e ha parlato anche dei famosi 80 euro in busta paga, arriveranno entro maggio, ha confermato. Sentiamo. Lo faremo nel Consiglio dei Ministri del giorno 18. E quindi sì? Sì. E si rilanciano così i consumi, lei pensa? È una buona strada. Se mettiamo 10 miliardi in più nelle tasche degli italiani, è altamente probabile che una parte di questi vengano spesi e una parte finisca in gettito per le casse dello Stato e una parte in reddito per commercianti, artigiani e coloro i quali beneficeranno. Però le partite IVA, per esempio, sembrano dimenticate da tutti, anche da voi? Noi proporremo di estendere il beneficio fiscale delle persone fisiche anche alle partite IVA che guadagnino con lo stesso reddito degli altri, cioè meno di 25 mila euro, e che non abbiano dipendenti. Pensiamo a tanti giovani che hanno aperto partita IVA e che non hanno dipendenti e guadagnano meno di 25 mila euro. Questo è il quadro dal punto di vista più puramente politico, ma c'è anche un'altra vicenda che in parte agita il centrodestra ed è la vicenda dell'Utri. Facciamo il punto con Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. Ancora molti punti interrogativi sulla vicenda di Dell'Utri, che si trova da sabato in una cella di sicurezza di Beirut. Oggi al Palazzo di Giustizia della capitale libanese dovrebbe esserci udienza di convalida del fermo nei confronti dell'ex senatore di Forza Italia per il suo tentativo di fuga, che secondo i magistrati di Palermo c'è, ma che la sua difesa continua a smentire. Dell'Utri dovrebbe spiegare dunque i motivi della sua presenza in quel paese o chiedere se volesse di essere consegnato subito alla polizia italiana per dar corso alle procedure di estradizione, ma i condizionali sono d'obbligo. L'udienza prevista per le 8:30 non è ancora iniziata, del ritardo tra l'altro non viene data nessuna spiegazione ufficiale. Secondo alcune fonti il giudice libanese sarebbe invece intenzionato a non ascoltare oggi Dell'Utri ma a rinviare per attendere la sentenza della Cassazione. Domani infatti dovrebbe tenersi l'udienza presso la Suprema Corte italiana, nella quale invece si dovrebbe decidere se condannare l'ex senatore in via definitiva a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa o se rinviare ad un terzo processo in appello. Ma anche qui condizionali d'obbligo, perché i legali dell'ex senatore chiedono il rinvio del verdetto. Uno di loro è ricoverato da ieri in una clinica, stamattina anche il suo secondo difensore depositerà un certificato medico che prova la sua impossibilità a partecipare al processo. In assenza di entrambi i legali il rinvio appare altamente probabile, dunque una partita ancora aperta. Te Simone. Grazie alla nostra Alessandra Schepisi. Andiamo all'estero per un punto sull'Ucraina, poi ci torneremo più avanti con un approfondimento. Hanno sfidato l'ultimatum di Kiev e invece di liberare gli edifici già occupati, la sede dei servizi e il commissariato di polizia, i filorussi hanno occupato un terzo edificio a Sloviansk, nella regione di Donetsk, il municipio. Il governatore Sergei Taruta ha annunciato l'introduzione del regime antiterroristico. Proprio in relazione all'operazione minacciata ieri da Kiev allo scadere dell'ultimatum. A Gorlovka invece è stato il commissariato ad essere occupato da 150 attivisti che, armati di Molotov, hanno innescato un incendio. Contro l'Occidente ha tuonato il ministro degli esteri russo Lavrov, secondo il quale Mosca non ha sentito ancora reazioni all'intenzione di Kiev di usare l'esercito per reprimere le azioni di protesta dei filorussi. E nella notte è andato in scena l'ennesimo braccio di ferro tra Russia e Stati Uniti nella riunione di emergenza all'ONU chiesta da Mosca. L'ambasciatore britannico Grant ha confermato che le immagini satellitari mostrerebbero 35-40 mila soldati russi alla frontiera con l'Ucraina. Dal canto suo, l'ambasciatore russo, Churkin, ha rivendicato la necessità di garantire la tutela dei cittadini di origine russa. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un nuovo rapporto dell'ONU sul cambiamento climatico. Le emissioni di CO2 aumentano, il pianeta si scalda, ci vogliono più efficienza e meno combustibili fossili. Non è uno stillicidio di allarmi, ma un'unica sirena quella che arriva dall'IPCC, il gruppo intergovernativo di esperti sul clima istituito dall'ONU. Solo che suona intermittenza, via via che vengono approvate le analisi dei vari gruppi di lavoro che partecipano al rapporto 2014. Qualche settimana fa è uscito il primo volume, basi fisiche e scientifiche, poi il secondo, impatti, adattamenti e vulnerabilità, ed ora il terzo, politiche di mitigazione e impatti sociali. E che ci dice? Che poiché le emissioni di gas serra stanno aumentando, se continuiamo così, nel 2030 saremo a un passo dall'aumento di 2 gradi della temperatura del pianeta rispetto al periodo preindustriale, che è il vero punto di rottura dell'equilibrio. Ma se invece ci diamo da fare ora, la strada sarà in salita, ma sopportabile. Come, vi domandate? Con politiche salde e di lungo periodo, con gli obiettivi che spiega Alessandro Lanza, del Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici. 2 grandi classi: decarbonizzazione, aumento dell'efficienza, una pluralità di strumenti che devono essere utilizzati tutti, non sono alternativi. E poi molte rinnovabili e negoziati con gli ex paesi emergenti, che ormai a quantità di emissioni valgono quanto noi, se non di più. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Ci sono novità della mattina sulla vicenda della donna morta dopo l'assunzione della RU486, ossia la pillola abortiva. Anna Marino, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Solo l'autopsia iniziata da poco stabilirà se c'è un collegamento tra l'interruzione di gravidanza a cui si era sottoposta con la pillola RU486 e la morte di una donna di 37 anni, ma è comunque polemica quella che, se è confermato appunto il legame tra il trattamento e il decesso, sarebbe la prima vittima in Italia della cosiddetta pillola dell'aborto. Il procedimento aperto dalla Procura di Torino ipotizza il reato di omicidio colposo a carico di ignoti. La vittima, insegnante precaria, madre di un altro bambino di 5 anni, era la 7ª settimana di gravidanza. Lunedì scorso aveva preso la prima pillola in ospedale e si era poi fatta dimettere all'ospedale Martini di Torino, dove nel 2013 sono state eseguite una 60ina di interruzioni con questo metodo, senza che siano stati altri problemi. Fino alle 12 il decorso è stato del tutto normale, all'ora di pranzo però le prime difficoltà a respirare, da quel momento alla morte, sopraggiunta alle 22:45, 5 dopo 10 arresti cardiaci. I sanitari escludono al 100% gli errori, il medico legale avrà 60 giorni per le conclusioni. Intanto questa mattina, a lungo sopralluogo dei NAS all'ospedale Martini di Torino, ancora in corso. L'attenzione si concentra in particolare sulle cartelle cliniche della donna e anche il Ministero della Salute ha aperto un fascicolo chiedendo la relazione alla Regione Piemonte. C'è il dibattito proprio a Torino, dove nel 2005 iniziò la sperimentazione. Ed è tutto. E grazie alla nostra Anna Marino. E c'è in studio invece con me Dario Ricci. Dario, ciao, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno a tutti. E tra poco con lui parleremo del cambio della guardia in Ferrari dopo le tante delusioni di queste settimane, ma dopo il traffico. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Il giorno delle nomine nelle società di Stato sembra che si vada verso un ricambio totale. Sono pubblici i redditi di parlamentari e ministri, quello di Berlusconi scende dai 35 milioni della dichiarazione 2012 ai 4,5 dell'anno successivo. Ancora polemiche dopo gli scontri di Roma e timori anche per le prossime manifestazioni, il caso di un agente fotografato con il piede su una ragazza. In Ucraina nuove occupazioni di edifici governativi da parte di filorussi e tensione che torna a salire. Parliamo di Ferrari però, in apertura di questa seconda parte con il nostro Dario Ricci, salta una testa dunque, quella di Stefano Domenicali, dimissioni chissà quanto spintanee, come si dice. Beh sì, siamo in giornata di nomine, direi che la Ferrari ha anticipato tutti, ma la notizia era nell'aria da qualche giorno, poi c'è stata questa accelerazione, Stefano Domenicali quindi lascia quel posto di team principal della Ferrari, ora spiegheremo cos'è quel ruolo, Simone, che ricopriva dal 2008. È un po' un'assunzione di responsabilità da parte di Domenicali, che della struttura della gestione sportiva della Ferrari è il responsabile, ma vale la pena ricordare, non è lui che né disegna le macchine né costruisce o progetta i motori, è un manager di altissimo profilo che assembla la squadra anche tecnico-ingegneristica che poi va a disegnare la Ferrari, quanto mai deludente di quest'anno. È chiaro che però è lui il fulcro e la testa, che è appunto l'unica che forse poteva saltare, così come in qualche modo era già stato preannunciato dal presidente Montezemolo fin da venerdì scorso. Domenicali paga i risultati deludentissimi di quest'anno, perché il mondiale, vale la pena dirlo, salvo miracoli, è già perso di fronte a questa straordinaria Mercedes, e quelli anche di una gestione, Simone, che dal 2008 di fatto ha portato a Maranello un solo mondiale costruttori e alcune cocenti sconfitte. Vale la pena ricordare quella di Abu Dhabi nel 2010, con Alonso in testa al mondiale nell'ultima gara e che perde clamorosamente per un errore di strategia ai box. Forse già allora l'idillio si era spezzato, no? Con questo Domenicali che comunque chiude la sua carriera in Ferrari dopo 23 anni di rossa, lui molese, sì. Insomma, a sostituirlo dunque questo Meccacci, insomma, sì, che... Marco Mattiacci, 43enne romano, finora a capo di Ferrari Nord America, ma con una profonda esperienza anche della gestione della Ferrari sui mercati asiatici. Beh, è chiaro che quella che prende in mano ora è una situazione quanto mai difficile. Bisogna vedere se questa sostituzione avrà peso e varrà soprattutto per quest'anno o in particolare già per il naturalmente prossimo. Con un occhio all'anno prossimo. Grazie al nostro Dario Ricci, io chiedo perdono agli ascoltatori per, se vogliamo, la cacofonia, però saluto a questo punto Aldo Ferrari, che insegna storia e istituzioni dell'area turco-caucasica e che in realtà è un nostro ospite consueto. Buongiorno. Buongiorno. Che insegna alla Ca' Fosca di Venezia ed è ricercatore dell'ISPI e che convochiamo spesso quando c'è da parlare della situazione in Ucraina. Mi sembra, Ferrari, che complessivamente la tensione, invece che scemare, continui a salire, soprattutto a livello internazionale, quasi più che sul terreno. Sì, purtroppo nessuno dei nodi è stato risolto. Si pensava che con la Crimea annessa de facto tutto fosse concluso, in realtà l'Ucraina rimane assolutamente instabile e tanto l'incertezza del governo di Kiev quanto la volontà della Russia di proseguire questa escalation, quando l'incapacità della comunità internazionale di risolvere la questione, stanno facendo crescere la pericolosità di una crisi che purtroppo non accenna a terminare. Che sbocco potrebbe avere? Oggi c'è il consueto scontro tra paesi più morbidi e meno morbidi in seno all'Europa sulla Russia, perché il ministro degli esteri britannico dice dobbiamo accelerare, l'Europa prepari la fase 3 delle sanzioni, il nostro ministro Mogherini dice non è ancora il momento della fase 3. Vorrei capire secondo te quale può essere l'evoluzione della vicenda. Purtroppo l'Europa rimane divisa, estremamente divisa, in politica estera in particolare, e riguarda la Russia ancora di più. Questa ambivalenza c'è sempre, Gran Bretagna, Paesi Baltici, Polonia contro l'Europa centrale, Francia, Germania e Italia. Si vede anche in questi giorni l'incapacità di Bruxelles di trovare una voce comune, è una delle principali ragioni della insolubilità della crisi. L'unica soluzione a questo punto assolutamente urgente è che le parti in causa si mettono a parlare realmente, al di là di sanzioni, al di là di minacce verbali, Russia, Ucraina, Unione Europea e Stati Uniti, ma non Russia e Stati Uniti, perché l'Unione Europea deve essere coinvolta in questa questione che la riguarda così da vicina, devono trovare le soluzioni durature per la crisi ucraina, che non è limitata soltanto alla questione della Crimea, non è limitata soltanto all'est russofono, ma è anche e soprattutto una crisi gravissima di tipo economico. Ferrari, in 20 secondi, che finisca in armi tra Russia e Ucraina è possibile secondo lei o probabile? È la eventualità peggiore, mi sembra improbabile, ma questa escalation non promette nulla di buono. È assolutamente giunto il momento delle trattative, senza queste trattative il rischio può esserci. Grazie ad Aldo Ferrari, che insegna storia e istituzione dell'area turco-caucasica e storia della cultura russa a Ca' Foscari di Venezia e ricercatore dell'ISPI. Buona giornata. Noi adesso andiamo a Milano e parliamo della Scala, perché è in corso un consiglio d'amministrazione su una vicenda che sta facendo molto discutere. Il futuro sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano, Alexander Pereira, designato a prendere il posto di Stéphane Lissner dal prossimo ottobre, non è ancora in carica ma già fa discutere. Ha creato infatti sconcerto la notizia rimbalzata dalla stampa austriaca che Pereira avrebbe acquistato dal Festival di Salisburgo, che lui stesso guiderà fino a settembre, ben 7 allestimenti per conto del Tempio della Lirica milanese da piazzare nella prossima stagione. Un'operazione di cui non sembra fosse informato nemmeno il CDA. Ed è stato di certo questo uno dei temi scottanti discussi nella seduta odierna del Vertice Scaligero, come aveva annunciato qualche giorno fa anche il sindaco di Milano e presidente della Fondazione Scala Giuliano Pisapia, che si era detto molto stupito riguardo a questa vicenda. Intercettato dai giornalisti all'uscita del CDA della Scala, Pisapia ha detto che il Ministero dei Beni Culturali ha chiesto una relazione sulla questione, mentre il presidente della provincia Guido Podestà ha detto che Pereira non è in discussione, si tratta solo di capire. Insorgono i sindacati. Per Giancarlo Albori della CGIL, questa operazione non solo pregiudica la qualità artistica del teatro, ma a lungo termine potrà incidere anche sull'occupazione. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ivo Rossi, sindaco di Padova, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Allora, l'abbiamo chiamata perché abbiamo letto di queste notizie per le quali stareste ipotizzando voi, insieme al consolato romeno, di utilizzare anche poliziotti romeni e uomini dello stesso consolato per la prevenzione, per l'aiuto delle indagini in merito alle rapine compiute dai loro connazionali. Ci spiega un po' meglio che cosa intendete? Allora, la cosa nasce in occasione dell'inaugurazione di una chiesa ortodossa rumena che è stata aperta a Padova. Tenete presente che in città vivono circa 9.000 persone provenienti dalla Romania, che sono perfettamente insediate e che svolgono le più diverse attività. Insomma, purtroppo negli ultimi mesi è stata un'escalation di fenomeni di criminalità che hanno visto coinvolti persone che provenienti da quel paese, spesso anche in trasferta, cioè che venivano a fare compiere i reati e poi magari tornavano nel loro paese, e parlandone appunto con il console si è dichiarato disponibile a dare anche un sostegno per tutelare in particolare la popolazione rumena insediata in città. E come può avvenire questo tecnicamente, sindaco? Ma questo gli esperti poi in materia di sicurezza mi dicono, appunto, a parte che lo conosciamo anche noi, insomma, esistono già dei protocolli fra Italia e Romania che hanno già visto in passato l'uso anche di la collaborazione con poliziotti rumeni, con il loro ministero, e in questo senso sono dichiarati disponibili a continuare in questa azione laddove ci sia consenso delle autorità italiane. A Padova non ci saranno poliziotti rumeni che pattugliano le strade, in sostanza? Io capisco che poi i titoli dei giornali devono enfatizzare un po', qualche aspetto, però devo dire che tra l'altro la polizia sta facendo un lavoro davvero importante, anche i carabinieri, nel corso degli ultimi mesi, perché ci sono fenomeni piuttosto fastidiosi. Devo altrettanto dire anche che ci sono problemi legati a quello che succede quando poi delle persone vengono arrestate. È capitato anche recentemente che la polizia locale ha fermato uno che aveva appena fatto un furto in un negozio, questo è il lunedì pomeriggio, non c'è stata ovviamente la convalida dell'arresto. Il venerdì successivo, nello stesso negozio, ha ripetuto lo stesso reato, sempre trovato e colto in flagrante, ed è stato immediatamente denunciato. Ma in pratica, la polizia romena in cosa vi può aiutare? A riprendersi direttamente i criminali che provengono da quel paese? No, credo che possa eventualmente, laddove il ministro lo ritenga, collaborare per avere una rete di intelligence molto più efficace, quindi anche laddove i delinquenti partano dal loro paese, vengono a operare nel nostro territorio. Da quello che si capisce, insomma, abbiamo delle bande organizzate che operano in tutto il nord Italia, che poi rientrano, forse perché ritengono, sembra purtroppo che questa sia la considerazione che talvolta viene fatta, che siamo un po' il ventre più molle, dove la probabilità che ti succeda qualcosa è più bassa che in altri paesi d'Europa. Grazie Ivo Rossi, sindaco di Padova. Quindi, come avete capito, si tratta più che altro di una collaborazione eventuale tra le nostre polizie. Ci torneremo più avanti sulle vicende di Roma e sugli scontri che ci sono stati durante il corteo. Intanto la cronaca di oggi. Un provvedimento disciplinare è quanto rischierebbe il poliziotto ripreso da un video mentre sale con un piede sull'addome di una ragazza a terra nel corso degli incidenti scoppiati sabato nel centro di Roma durante il corteo per il diritto alla casa. La questura di Roma ha deciso di aprire un'indagine interna per identificare l'agente. Non si esclude però che venga aperto un fascicolo di indagine da parte della procura, e dovrebbe invece arrivare oggi la decisione sulla richiesta al GIP di convalida dei fermi dei 4 dei 6 manifestanti individuati durante gli incidenti. Il PM ha formalizzato per loro le accuse di violenza, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Gli altri due fermati erano stati rilasciati subito dopo essere stati denunciati. La Digos continua ad esaminare i filmati e le foto per identificare altri partecipanti agli scontri. Daniele Scopigno, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Attese nelle prossime ore le decisioni del governo sulle nomine. In questo momento è in corso un colloquio tra il Presidente del Consiglio Renzi e il Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan. Sembra che si vada verso un ricambio totale, si punterebbe sulla parità tra uomini e donne. Sono pubblici i redditi di parlamentari e ministri, quello di Berlusconi scende dai 35 milioni della dichiarazione 2012 ai 4,5 dell'anno successivo. Nel governo dai quasi 300 mila euro di Lupi ai 76 mila della Boschi. In Ucraina nuove occupazioni di edifici governativi da parte di filorussi, scontro tra i ministri europei sulla fase 3 delle sanzioni verso la Russia. Ferrari in crisi, si rimette Stefano Domenicali, mi assumo la responsabilità della situazione che stiamo vivendo, ci vuole una scossa. La borsa. Borse in diretta. E la giornata è complessivamente negativa, meno 0,94% sul FTSE MIB, meno 1,07% sul FTSE All Share, Parigi perde mezzo punto percentuale, Francoforte altrettanto, Londra lo 0,38%. Isabella Tasso, Radio Cuore, Il Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Allora, cosa dobbiamo questi cali? Ma sì, come dicevi, le borse sono ancora una volta pesanti, è una seduta che risente a livello globale delle nuove tensioni in Ucraina e soprattutto continua il movimento di realizzi. Dopo la corsa di marzo gli investitori preferiscono incassare i guadagni realizzati fin qui, del resto Piazza Affari vanta ancora un progresso di oltre il 10% da inizio anno, questo nonostante la correzione di oltre il 4% della scorsa settimana. Resta da vedere quanto durerà la correzione in corso. Negative molte banche, ma soprattutto la Popolare di Milano, l'8,5%. Milano perde quasi il 9%, risente della bocciatura della riforma della governance da parte dell'Assemblea dei Soci che si è tenuta sabato. Sul mercato ci sono timori sulle conseguenze che questo potrà avere per l'aumento di capitale che partirà il 5 di maggio. Isabella, invece le aziende delle quali oggi si decide la sorte, o almeno dei vertici, come vanno? Ma guarda, va bene l'Eni, più 0,7%, sono il marginale di basso l'Enel, meno 0,25%, le Finmeccanica fanno meno 0,28%. In particolare per quanto riguarda l'Eni, gli investitori istituzionali, in particolare i fondi, sembrano apprezzare l'ipotesi che possa essere Claudio Descalzi, attuale direttore generale dell'esplorazione e della produzione, ad andare alla guida della Major al posto di Paolo Scaroni, questo perché darebbe continuità alla politica di Scaroni. Grazie Isabella Tasso e grazie ai colleghi di Radio Corriere Sole 24 Ore, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ebbene, vi avevamo detto che saremmo tornati su Roma e sulle violenze che ci sono state durante lo scontro, durante i cortei per la casa, ed ecco che ci arriviamo col nostro Daniele Bianchessi. Quelli di sabato 12 aprile a Roma erano scontri ampiamente annunciati. Si sapeva da settimane che il corteo dei movimenti per il diritto all'abitare contro il Jobs Act del governo guidato da Matteo Renzi si sarebbe trasformato nell'ennesima vetrina per piccoli gruppi organizzati di Blue Bloc, una nuova versione dei Black Bloc in perenne ricerca di visibilità e agibilità politica. Del resto, violenti scontri tra manifestanti e forze di polizia si erano già consumati in quel drammatico sabato 15 ottobre del 2011 durante l'iniziativa dei cosiddetti indignati, e simili fatti si sono poi ripetuti numerose volte da quel giorno ad oggi. Certo, abbiamo visto ragazzi vestiti di nero e di blu armarsi di fionde, lanciare sassi, molotov, petardi contro la polizia e poi assaltare il Ministero del Lavoro, distruggere autoveicoli e erigere barricati, ma abbiamo visto anche un agente con i pantaloni beige e il giubbotto di pelle salire con tutto il suo peso sul corpo inerme di una ragazza rimasta a terra dopo numerose manganellate accanto al suo compagno con la fronte insanguinata. Abbiamo visto anche altri agenti che si accanivano su gambe, teste e occhi di persone inermi e giornalisti che esibivano il tesserino professionale. Il bilancio del sabato nero romano è drammatico: decine i feriti, numerosi gli arrestati. Secondo il ministro dell'interno Angelino Alfano, le forze dell'ordine hanno protetto Roma dall'ennesimo tentativo di saccheggio. Ma il ministro dovrebbe sapere che la gestione delle piazze è cosa ardua e difficile, e che il ricordo delle giornate genovesi del luglio 2001, Scuola Diaz e caserma di Bolzaneto, sono pagine vergognose che uno Stato democratico e di diritto non può permettersi. Il ministro dovrebbe sapere che la gestione delle piazze è materia per professionisti, non robetta per dilettanti allo sbaraglio, poco inclini alla prevenzione, profondamente orientati al massacro indiscriminato. Dovrebbe infine Alfano riguardare con attenzione le immagini diffuse dal programma Servizio Pubblico che ritraggono le violenze degli agenti di polizia. Anche quelle, esattamente come le violenze dei Blue Bloc, sembrano appartenere ad un brutto passato che troppo spesso in Italia ritorna. Allora, questo è il commento del nostro Daniele Bianchessi, e per ragionare su questo e per capire anche se ha qualcosa da dire naturalmente su questo servizio, saluto Gianni Tonelli, presidente del SABE, il sindacato autonomo di polizia. La prima cosa che le voglio chiedere è se secondo lei c'è stato effettivamente del dilettantismo nella gestione della piazza l'altro giorno a Roma. Beh, è molto difficile dover fare queste affermazioni, ma io non condivido quello, i contenuti del servizio, anche perché l'ordine pubblico è sicuramente una delle cose, delle azioni più difficili, delle attività più difficili che gli operatori della polizia devono sviluppare. Per questo motivo, siccome noi non abbiamo nulla da nascondere, e anzi abbiamo desiderio di dover anche rispondere delle nostre, di fronte per quelle che sono le nostre responsabilità, abbiamo lanciato la proposta di avere un magistrato sia presente, un magistrato chiaramente requirente, che sia presente nel corso di queste manifestazioni, perché condividere in maniera sana una responsabilità come quella della piazza e come quella di Mascalzoni, che hanno trasformato mai le piazze del nostro paese come dei parchi giochi per divertimenti, è comunque, dire, potrebbe essere una cosa molto utile a tutti, perché alla fine il dito si punta sempre contro gli operatori delle forze dell'ordine, e se eventualmente vi possono essere anche errori, perché non voglio mica a priori dover escludere questo, e non vogliamo neppure nessuno sconto per quelle che dovesse essere nostra responsabilità, ma però riteniamo che ci debbano essere individuate anche responsabilità da parte degli altri. E sa, non voglio entrare troppo in tecnicismi, però vi sono persone che sono state ormai denunciate in maniera controvertibile oltre 80 volte e non risponderanno mai per tecnicismi giuridici delle loro responsabilità, non verranno mai chiamati a dover subire, a patire una condanna. E allora, sì, devo dire la verità, da parte degli operatori delle forze dell'ordine diventa anche problematico dover andare in piazza a affrontare queste persone che sono certe di essere immuni e non verranno mai punite. Cioè all'interno hanno... mi scusi Tonelli, all'interno di quella piazza c'era gente che era stata già identificata e fermata 80 volte, ha detto? No, quella piazza no, ma io le posso portare mille casi in cui vi sono persone, io personalmente sono a conoscenza, ad esempio io sono a Bologna, nella città di Bologna, persone che sono state già denunciate 80 volte per fatti che concernono l'ordine pubblico. Allora è chiaro che di fronte a fatti del genere che tutti conoscono, vuol dire che il sistema con coscienza e volontà tollera dei fatti che sono assolutamente impossibili da dover tollerare, perché in qualsiasi paese, se queste cose venissero conosciute, sono veramente una beffa. Sì, senta, invece per quanto riguarda al di là, insomma, no, delle responsabilità dei singoli, come lei ci diceva, come per esempio la gente in Borghese, appunto, che ha messo il piede su quella ragazza, al di là delle responsabilità dei singoli, in generale la gestione dell'ordine pubblico di quella giornata a Roma, secondo lei come è stata, cioè per come è stata organizzata e per come è stata gestita la piazza? Cioè era possibile far diversamente oppure no? No, non è possibile, perché in Italia come si fa? Non possono essere perquisite le persone, tranquillamente guai, queste persone sono animate dalla certezza di non dover mai rispondere, arrivano con spranghe, travisati, caschi, molotov, bombe carta e quant'altro, e alla fine, voglio dire, quelle che sono le regole che governano l'ordine pubblico gli consentono tutto questo, lei mi dica com'è possibile fare. Cioè, oramai, le ripeto, ma questo non perché deve essere una battuta efficace, partendo dalla Val di Susa, arrivando agli stadi, arrivando alle piazze del paese, sono diventati dei parchi giochi per Mascalzoni. Com'è possibile accettare questo? Tanto voglio dire, ogni volta che vengono denunciate non c'è nessun problema, perché andrà sempre in prescrizione, perché sono reati che per le tempistiche dell'ordinamento giuridico nostro, per le nostre, alla fine porteranno la prescrizione certa, le persone vanno e fanno quello che vogliono, tanto sanno che non andranno mai a pagare. Quindi un bel magistrato lì, pubblico ministero, che possa immediatamente chiedere al GIP, nel caso in cui vi siano reati che comportano l'arresto, di convalidare l'arresto e un giudizio per direttissima, sarebbe una grandissima cosa, non solo funzionale per l'ordine pubblico, ma ripeto, una sana condivisione di responsabilità. Senta Tonelli, un'ultima domanda che le voglio fare, che ci arriva via SMS da qualche ascoltatore. Ma l'ipotesi, spesso se ne è parlato per quanto riguarda queste manifestazioni di piazza, dei numeri identificativi. L'ho anticipata, dei numeri. Noi andiamo ancora più in là, come SAP. Noi chiediamo addirittura delle videocamere, perché siccome i numeri noi la rigettiamo, perché teniamo alle nostre famiglie e conosciamo, mi scusi il termine, questa teppaglia cosa è capace di fare, e quindi di insidiare anche, una volta individuate le persone, le famiglie, allora noi chiediamo delle videocamere, quindi di fronte alla verità, questa sarebbe un'operazione che si può definire verità e giustizia, siccome noi non temiamo quello che facciamo, vorrà dire che con le videocamere le responsabilità di chi realmente è il teppista si vedranno. Videocamere sui caschi, cioè lei dice videocamere sui caschi, Tonelli? Certamente, potrebbero andare bene, perché altrimenti, sa, le faccio un esempio, le ricordo il fatto di Terni, se non c'erano delle videocamere noi eravamo degli spregevoli lanzichenecchi al soldo del padrone delle feriere che bastolavano gli operai affamati, mentre invece era un'ombrellata di un amico al sindaco di Terni, se la ricorda? Sì, me la ricordo, me lo ricordo, ci ho fatto anche una trasmissione. Allora la ringrazio Tonelli, devo chiudere perché dobbiamo sentire che cosa succede sulle strade, e poi naturalmente c'è come sempre America 24. Grazie a Gianni Tonelli, presidente del SAP, sindacato autonomo di polizia, buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed è il momento di Mario Platero e di America 24. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Washington, Mario Platero. But the best way is actually to get together and discuss the policy issues as frequently as we can. Mario Draghi, il governatore, il presidente della BCE, nella conferenza stampa finale delle riunioni di primavera del Fondo Monetario e Banca Mondiale, focalizzando la sua attenzione su varie cose, ma soprattutto sul tema della deflazione in Europa. In realtà si vuole parlare di bassa inflazione più che di deflazione, e sul fatto che potrebbero esserci delle misure, nel caso l'euro dovesse continuare a rafforzarsi, per ridimensionarlo un pochino, per recuperare competitività. Questo è stato uno dei temi. Ce ne sono stati molti altri. Per esempio, durante la conferenza stampa del nostro ministro dell'economia Piercarlo Padoan, gli ho chiesto che fine ha fatto il fondo di 500 milioni di dollari che aveva annunciato il presidente del Consiglio in supporto delle attività non profit. Le attività non profit in America sono un settore enorme, danno occupazione a decine di migliaia di persone, sono soprattutto un settore molto elastico nel contesto della creazione dell'occupazione. Dunque gli ho chiesto se si andrà avanti e gli ho chiesto soprattutto se si potrà procedere una volta per tutti con l'introduzione della deducibilità delle donazioni alle fondazioni. Sentiamo cosa mi ha risposto. Sulla misura specifica che lei menziona, dobbiamo esaminarla. In questo momento, in questi giorni, siamo impegnati a preparare misure legislative che daranno sostanza alle misure generali accennate introdotte nel DEF riguardo al taglio del cuneo fiscale, le coperture e quant'altro. Il tema, quindi non posso rispondere direttamente alla sua domanda, sicuramente sono d'accordo che il settore non profit è importante. Ricordo che per quanto riguarda le misure fiscali, il Parlamento ha appena approvato qualche settimana fa la legge delega, la quale offre un quadro complessivo, dovrà offrire un quadro complessivo per la revisione generale del sistema fiscale, sia dal punto di vista dell'imposizione che dal punto di vista delle agevolazioni. Quindi bisognerà aspettare un po' per questa direzione. La situazione in Ucraina continua a peggiorare di giorno in giorno, di ora in ora. Ci sono stati ieri degli scontri tra le truppe regolari e i ribelli, poi non si sa se sono militari russi senza la divisa formale o se sono semplicemente dei disturbatori, ma comunque la preoccupazione aumenta anche qui al fondo. Sentiamo anche su questo cosa ha detto il ministro. C'è ovvia constatazione che l'interdipendenza fra l'Ucraina, la Russia e l'Unione Europea è elevata, quindi misure che possano per qualche ragione generare disturbo a queste relazioni commerciali, finanziarie e anche energetiche avrebbero conseguenze importanti. Quindi questo è un elemento che viene tenuto presente in modo molto chiaro nella valutazione di questa crisi, che è una crisi essenzialmente di sicurezza e strategica e non tanto economica. Ci possono essere misure economiche che sono state ventilate, ma non mi sembra che siano all'ordine del giorno. Si è discusso qui a Washington anche della necessità di aiutare l'Ucraina, ma i fondi che dovrebbero essere erogati dal Fondo Monetario Internazionale non possono partire fino a quando non sarà ratificato l'aumento del capitale del fondo, che per ora è bloccato dagli Stati Uniti. Dunque c'è una contraddizione americana: da una parte Washington vuole aiutare finanziariamente Kiev, dall'altra, per questioni interne, i repubblicani resistono, c'è un anno elettorale, non si vogliono erogare fondi alle istituzioni multilaterali, si sta fermi. Ecco, di questo, ma anche di altro, ho parlato in un'intervista esclusiva con il ministro Piercarlo Padoan. America 24. Buongiorno ministro. Buongiorno. Bene, allora intanto la sensazione essere qui al fondo, lei era come direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale, ci si vedeva già allora torna come ministro. Che sensazione le fa questo passaggio? Intanto una sensazione di trovarsi di nuovo tra vecchi amici, ma dal punto di vista delle questioni discusse il clima è totalmente diverso. 10 anni fa nessuno pensava che il mondo avanzato con l'epicentro negli Stati Uniti stesse per entrare nella più grave crisi nel dopoguerra, e nessuno pensava che l'euro potesse essere sull'orlo della dissoluzione dopo qualche anno dalla sua istituzione, cosa che purtroppo è successa un paio di anni fa. Ecco, però tutti ammettono, siamo fuori dalla crisi, siamo fuori dal rischio, l'euro anzi è fortissimo e non sembra cedere. E qual è il messaggio che emerge dal fondo per la crescita? Il messaggio che emerge dal fondo è che di un moderato ottimismo rispetto a qualche trimestre fa, e l'idea che il principale motore della crescita debba essere un programma di riforme strutturali che appunto rilancino la crescita e la produttività, un rafforzamento del sistema finanziario in un contesto di finanza pubblica in equilibrio. Quindi non si vede questo conflitto fra crescita e rigore. Questo è un conflitto che, se mai c'è stato nel dibattito, non c'è più nel dibattito oggi. Ecco, gli Stati Uniti però continuano un po' a insistere su questo punto, chiedono che l'Europa faccia più la sua parte, premono soprattutto per sulla Germania, e abbiamo avuto dati che parlano più di deflazione che di rischio inflazione. Lei crede che le cose sono cambiate o possono cambiare in Europa da un punto di vista di atteggiamento, diciamo, espansivo? Non ho visto questo conflitto questa volta in Europa. Sì, no, dico non qui al fondo, però diciamo l'America, le dichiarazioni che fanno gli americani in contesti magari unilaterali, diciamo l'attacco alla Germania c'è sempre. Ripeto, non ho visto né al G20 né alla MFC, cioè alla riunione del Fondo Monetario, questo dibattito. C'è stata piuttosto una convergenza importante sul ruolo delle riforme strutturali come sostegno alla crescita, c'è stato un dibattito sul tema della deflazione, e da parte europea si è sostenuto con molto vigore che l'Europa non è in deflazione ma in un contesto di bassa inflazione che deve essere salvaguardata e monitorata attentamente dalla Banca Centrale Europea, cosa che puntualmente sta succedendo adesso. Ecco, molti in Europa dicono che l'euro è troppo forte e che forse da qui alla fine dell'anno potrebbe esserci un'inversione di tendenza. So che lei come ministro non può fare dichiarazioni di pronostico, ma qual è l'auspicio? Che l'euro diventi più competitivo? L'euro è probabilmente un po' sopravvalutato se si guardano i cosiddetti fondamentali, e questo evidentemente può essere corretto, ma se deve essere corretto lo farà il mercato. Il problema della competitività è sostanzialmente un problema di aggiustamento della produttività nei paesi, e questo vale anche per l'Italia. Ecco, un'ultima cosa, le quote, dovevano essere, l'aumento delle quote del fondo doveva essere ratificato entro la fine dell'anno scorso, il congresso americano fa difficoltà. E per ora questo aumento, che poi tra l'altro porterà a una riallocazione delle quote e quindi alla fine di un'epoca, perché le democrazie industriali non avranno più la maggioranza. Ecco, cosa succederà? Che tempi ci sono? Naturalmente da parte di tutti i paesi che hanno già ratificato questa variazione delle quote c'è impazienza nei confronti di chi ancora non l'ha fatto, e soprattutto gli Stati Uniti, ma c'è anche comprensione che c'è un processo politico e parlamentare negli Stati Uniti che deve compiersi, e in questo senso c'è un'opinione generale che si debba attendere ancora che gli Stati Uniti possano completare il processo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com e su Twitter @MarioPlatero. Da Washington è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24. Ed è tutto anche per Effetto Giorno. Un ringraziamento a Gianmarco Ferronato in regia, Laura Fagini in assistenza in redazione, tutta la redazione di Radio 24. L'email per raggiungerci è effettogiorno@radio24.it, c'è la nostra pagina Facebook, ci sono io su Twitter, se volete mi trovate, Simone Spezia. Ci risentiamo tra un attimo con GR24 e poi domani alle 13 come sempre con la trasmissione.